prima di cominciare la vostra diretta, volevo dirvi che bisogna entrare nello studio di Giuoco per essere padroni di Giuoco. Non cambierei mai la vostra rosa con la rosa di nessun'altra radio. Voi entrate in studio sapendo di essere i più forti. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Cioè che Garcia nelle ultime settimane ha continuato a tornare sulla partita Juventus-Roma, dimenticandosi invece che nelle ultime partite episodi dubbi a suo favore se ne sono stati tanti. Questo, la sintesi, significa in sostanza che se arbitra un essere umano evidentemente può anche sbagliare, e quindi in questo campo bisogna accettare le regole del gioco, e anche la Roma deve accettarle. Sono due immagini diverse, una che sembrerebbe, insomma, dire che il pallone ha preso in buona parte la linea, però quest'ultima immagine effettivamente sembra raccontare il contrario. Se noi mettiamo gli arbitri di porta, cioè se noi abbiamo gli arbitri di porta che decidono, inizialmente sono nati per il gol non gol, e l'arbitro di porta dice che non è gol, e l'arbitro in un primo momento dà retta all'arbitro di porta, poi ha tutto il diritto di cambiare idea quante volte vuole perché lui è il signore di gara, ma allora a cosa servono gli arbitri di porta? Quando si perde non bisogna trovare colpe, colpevoli, insomma, io mi assumo le mie responsabilità, probabilmente potevo fare qualcosa in più e niente, andiamo avanti. Quando si perde è giusto che le colpe si riprenda l'allenatore, preferisco, trovare colpevoli non mi piace. Buongiorno a tutti, dunque in questo riassuntone curato dal nostro autore Franco Piantanini, da Fabio Cantadone in regia, Daniele Buonamici in redazione, tutto il senso di una 17ª giornata, quella della Befana, che ha definito una classifica nella quale la Juventus ha un punto in più rispetto alla Roma a quest'ora. C'è di mezzo il 40 contro 39, c'è di mezzo il gol strano di Udine, abbiamo sentito prima le parole di Stramaccioni, abbiamo sentito Marotta e abbiamo gli echi di una polemica che arriverà, sono convinto, anche da voi, 800240024, perché già ieri ne abbiamo avuto un primo assaggio in diretta quando la Juventus ancora non aveva giocato. Dunque c'è di mezzo questo gol strano di Udine. Stramaccioni si fa una domanda e si risponde: a cosa serve l'arbitro di porta? Praticamente non serve a nulla, questo l'abbiamo capito. C'è chi dice, vabbè, ma al di là dell'episodio del gol non gol, che probabilmente era gol, quindi dunque bravissimo Guida che ha così deciso. Molti sono arrabbiati anche per un rigore di Emanuelson che non è stato concesso sul fronte juventino, c'è anche quell'episodio di Campagnaro che non è stato sanzionato, anzi è arrivata una ammonizione, cartellino giallo per Morata, insomma un uragano di polemiche nel giorno della Befana. Io dico che la Juventus ieri sera ha guadagnato un punto, perché vista l'ottima Inter, migliore certamente Inter dell'anno, l'Inter che ha pareggiato a Torino e che ha giocato uno strepitoso secondo tempo, ebbene io penso che la Juventus abbia guadagnato un punto ieri in questa giornata. Ma il domandone è: ma se ci fosse stata a Udine, se a Udine ci fosse stata la Juventus in campo al posto della Roma, che cosa sarebbe successo oggi? 800240024 il numero verde. Tra l'altro la prossima giornata di campionato disegna un incrocio elettrizzante, il derby di Roma con una Lazio meravigliosamente terza insieme al Napoli che si è ripreso e che ha mortificato il Cesena in casa sua 4-1. L'impressione è quella di un Napoli che insomma si è tolto un peso di dosso vincendo la la Supercoppa europea e la Supercoppa italiana, che a questo punto un po' di argenteria l'ha messo in bacheca e quindi può correre anche più leggero. Certamente è stato un eccellente Napoli quello di ieri a Cesena, così come eccellente è stata la Lazio con la Sampdoria, e proprio nel prossimo fine settimana avremo questo incrocio: derby di Roma da una parte, derby della capitale, e sappiamo bene come questa partita voglia dire, cosa questa partita rappresenti nella capitale, e sull'altro fronte Napoli-Juventus, mica male. Intanto si discuterà tutto il giorno e si discuterà nei prossimi giorni di online technology, della tecnologia sulla linea di porta, che in Italia in un primo tempo era stata bocciata paradossalmente, perché siamo il paese in cui al mondo in cui più evidente e più sentita è la necessità della certezza del diritto intorno al pallone. Ebbene, la online technology torna in ballo, magari la vedremo, magari non vedremo più gli arbitri di porta. Costo, mi diceva ieri Piantanei, da 1087 euro, giusto? Mi confermi, Franco? 1080, ho aggiunto 7 euro al compenso per partita dell'arbitro di porta, lordi naturalmente. La tecnologia sulla linea di porta costa qualcosa in più, ma certamente è molto più efficace. D'altra parte leggiamo e vediamo oggi come anche in questo caso, cioè non, anche dal punto di vista tecnologico, l'infallibilità non esiste, perché c'è una scansione di un centimetro e mezzo, una soglia di errore, una tolleranza di un centimetro e mezzo per quanto riguarda la tecnologia sulla linea di porta. Dunque, ci fosse stata ieri a Udine la tecnologia sulla linea di porta, ci terremmo anche oggi tutti i nostri dubbi. 800240024, numero verde, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Traffico, e subito dopo torniamo con Pierluigi Pardo. Sul gol non è che oggi cambio idea sul fatto che con la goal light technology non ci sarebbe stato polemiche, perché il gol c'è, ma se c'è qualcosa di sicuro sarebbe meglio per gli arbitri. Convocati. La palla arriva al limite, Barreto con il destro, c'è gloria anche per Edgar Barreto, 5-0 Palermo. Chiaro che quando sei in situazioni come quella in cui siamo noi in questo momento, tutto sembra più difficile, però non bisogna piangerci addosso, insomma, bisogna sicuramente reagire meglio. È chiaro che oggi l'abbiamo fatto, siamo andati subito sotto, abbiamo peccato un po' di ingenuità lì, ma abbiamo abbozzato una reazione, abbiamo avuto una buona occasione. Poi chiaro che dopo l'espulsione di Conti è stata un'altra partita, ma anche lì, comunque in quelle situazioni, mi aspetto qualcosa di più. Beh, bene bene il Cagliari, primo Cagliari di Zola che prende 5 fischi col Palermo. È chiaro che il Cagliari non ha Dybala, non ha questi giocatori, però forse ha ragione Zola, no? Una reazione un po' migliore servirebbe e servirà. Sul banco degli imputati di oggi ci sono anche naturalmente il Milan, di cui poi parliamo, che perde in casa con il Sassuolo, c'è la Fiorentina che perde a Parma con Mario Gomez che sbaglia un rigore. C'è Pierluigi Pardo, ciao Pier. Ciao, come va? Molto bene. C'è una notizia anche di mercato, ma dei giornalisti, in questo momento è ufficiale: Guido Meda passa da Mediaset a Sky. Sì, gli facciamo ovviamente un grande in bocca al lupo dopo averglielo fatto in privato, ovviamente anche pubblicamente, mio fratellone con le basette. Noi siamo qui a parlare di calcio, arbitrali, congiure presunte o reali, e siamo qui a parlare anche di giornalismo mercato con Guido Meda che passa da Mediaset a Sky, quindi tornerà a commentare Moto Mondiale. Però, mamma mia che brividi. Maurizio Crosetti, buongiorno. Sì, buongiorno, certo, molto per modo di dire, oggi è inevitabile una notizia del genere, questa volta lo diciamo anche da giornalisti, per una volta parliamo anche della nostra categoria. come dire, l'orrore non ha categorie, non ha professioni, però qualcuno stamattina su internet ha scritto che è un po' l'11 settembre dell'informazione, una cosa così davvero non si è mai vista, sfoga una ferocia incomparabile, ma che qualche volta anche nel nostro piccolissimo, e tutti i giornalisti se ne accorgono almeno una volta nella carriera, la violenza di chi non accetta la critica, di chi non accetta la battuta, di chi non capisce, di chi pensa che tu sia contro. È chiaro che questi sono estremismi assoluti e imparagonabili, lo dico bene prima, però quel tipo di violenza che ha a che fare con la cecità di fronte alle opinioni diverse dalle proprie. Chi fa informazione, chi per mestiere commenta, divulga e racconta la realtà, è una sensazione che conosce purtroppo, lo devo dire da giornalista. Sì, lo diciamo da giornalista, lo diciamo anche da giornalisti sportivi, che siamo certamente dei privilegiati, però ci troviamo a battagliare perché sei contro o non sei contro, siamo dei privilegiati, ma siamo, come dire, molto vicini sempre o spesso all'estremismo emotivo, all'assurdità di non capire, all'essere ultra, non di curva, molti sono dei veri appassionati, ma ultra nel cervello, quelli che vedono soltanto il proprio schieramento e pensano che se non la pensi come loro sei un nemico, certo, da abbattere, certo, qualunque mezzo, sì, anche, guarda, con la violenza. Io chiaramente ho fatto benissimo a dire che ovviamente tutto questo è imparagonabile, e anzi credo che oggi sia chiaro a tutti che qui non è soltanto un discorso autoreferenziale da ordine dei giornalisti, ma la tragedia la tragedia di oggi colpisce tutti, perché ci dà proprio l'idea di quanto sia brutto un mondo nel quale bisogna aver paura di esprimere un'opinione, no? Cioè quanto sia il valore della libertà di stampa in tutto il mondo e di poter dire quello che si ritiene argomentandolo, quanto sia un valore insopprimibile e quanto sia dolorosa quindi una giornata come questa. Ritornando tutto nel micro pianeta Terra del nostro calcio, io ti posso dire, ieri se tu prendevi Twitter e Facebook c'era soltanto gente che aveva idea che il pallone fosse entrato di un metro, o gente che ti diceva che eri in completa malafede, perché c'è un'immagine chiarissima che ti dice che non è che quello lì non è gol. Quindi ripeto, nel piccolissimo di una situazione di questo tipo, però capisci che quel germe lì dell'essere ultra, ma non ultra, non c'entro l'ultra delle curve, è ultra mentalmente, cioè dell'essere completamente partigiani, completamente da una parte, di desiderare l'annientamento dell'idea altrui, insomma è sempre un germe pericoloso, anche se ovviamente insomma fa parte anche del bar, no? Fa parte, sì, del bar, e possiamo, grazie a Dio, anche riderci sopra su una cosa del genere, magari farci una birra su un episodio della Moviola, però filosoficamente è quella roba lì di pensare che se tu hai un dubbio, e io onestamente, io alla fine penso che quello sia gol, ma insomma i dubbi ce li ho e ce li ho avuti, ed ero in diretta, lo ce l'hai perché sei un gobbo, perché sei un ultra della Roma, certo, capito? Certo. Questo è assurdo, insomma. Sì, ma la domanda... Pistocchi che aveva argomentato a favore di Totti nella polemica con Ned di un paio di mesi fa, e per lui non è gol, allora che vuol dire? Era romanista due mesi fa e juventino adesso, capisci? Invece proprio l'onestà intellettuale di uno che ha delle opinioni e che argomenta e che valuta su quello che vede. Maurizio, ma se a Udine ci fosse stata la Juventus in campo al posto della Roma? Beh, ci sarebbe stata la Ju, perché adesso da ieri bisogna chiamarla Ju, non più Juve, cioè è mezza Ju, perché gioca solo primo tempo, quindi la Ju avrebbe dominato e la Ve si sarebbe fatta raggiungere, no, se ci fosse stata la Juve, gli ultra di altra fazione, gli integralisti di altro schieramento avrebbero detto i soliti ladri, lo dicono oggi personaggi di altra bandiera, di altro colore, ma non si esce mai dalla logica per cui se un arbitro sbaglia qualcuno l'ha comprato, e questo è un altro cancro che bisognerebbe stirpare con la più forte chemioterapia sportiva del mondo. Questo è veramente un elemento incredibile. Io ti dico che dateci la tecnologia, ma non perché io mi fidi ciecamente della tecnologia, perché poi anche la tecnologia, anche la macchina ha un centimetro e mezzo di tolleranza di errore, no? Quindi la verità assoluta, se parliamo di mezzo centimetro, di un centimetro, è una realtà molto relativa, però almeno c'è un giudizio certo, e questo semplificherebbe da morire la vita degli arbitri prima di tutto, e poi se vuoi anche dei telecronisti e dei giornalisti che stanno lì e che vedono un'immagine dalla quale sembra gol e un'altra dalla quale sembra che non è gol. e capisci che insomma tutto questo insomma sarebbe soltanto utile a togliere polemiche. Poi è vero, siamo un paese nel quale comunque la corruzione c'è stata, spesso chi ha pensato male ha avuto ragione. Io non è ovvio, è evidente che la cultura del sospetto nasce anche perché in Italia molti di quelli che erano sospettosi in ogni campo, dalla politica al mondo del calcio, probabilmente avevano delle ragioni, però insomma il dato è questo ed è veramente un peccato che sia così. Maurizio, la Juventus secondo me ieri sera ha guadagnato un punto. Beh, l'ha guadagnato nel finale e ne ha sprecati due all'inizio, quando poteva sommergere di gol l'Inter, e ha cominciato a fare i colpi di tacco esagerati. Bellissimo quello che ha prodotto, incomparabile, meraviglioso quello che ha prodotto il gol del vantaggio, il colpo di tacco di Vidal naturalmente, ma poi ne ho contati tre consecutivi in un'azione qualche minuto dopo, e ho pensato, ecco, se ci fosse Conte in panchina a quest'ora e al secondo colpo di tacco l'autore del medesimo si sarebbe fatto passare la voglia in eterno del colpo di tacco. Ma al di là di questo, certo, la Juve il punto alla fine l'ha guadagnato, eh sì, come no. Sì, l'ha guadagnato, la migliore Inter stagionale, siamo tutti d'accordo sul punto, no, Pardo e Crosetti? Sì, anche se il punto secondo me vale poco, è una valutazione questa. Beh, dalla geometria di ieri passiamo all'aritmetica di oggi, un punto è poco secondo me, a parte gli scontri diretti o alcune partite del campionato, per quella sfida lì, io parlo per la lotta a scudetto, ogni pareggio o quasi è un'occasione persa. Il pareggio della Roma in casa col Milan sono due punti persi, il pareggio della Juve in casa con l'Inter ieri sono due punti persi. Sì, poi certo è meglio che perdere, questo è catalano, la palis, però secondo me insomma ieri la Juve aveva una grande occasione e soprattutto c'è questa tendenza abbastanza inquietante al calo fisico, alla mancata gestione della partita. A me ha ricordato molto il match contro la Samp, quello di ieri, una vittoria nelle ultime quattro partite per la Juventus, una vittoria nelle ultime quattro, se ci mettiamo dentro anche il Napoli lo consideriamo un pareggio in Supercoppa, è una vittoria nelle ultime cinque. Sì. Se andiamo ancora indietro troviamo quella partita contro il Torino risolta con un colpo di genio di Pirlo a 6 secondi dalla fine, ma insomma ricordate la settimana prima di Juve-Torino sembrava che non si dovesse nemmeno giocare quella partita perché si partiva dal 3-0 in su, e invece il Torino se la giocò alla grandissima. Quindi che ci sia io l'ultima Juve scintillante l'ho vista veramente meravigliosa all'Olimpico con la Lazio, la partita che ho commentato, e lì la Juve è stata veramente eccezionale. Poi ho visto prestazioni così, Cagliari sicuramente, Cagliari molto bene, però insomma su alcune squadre forse bisogna fare un po' la tara, è un po' lo stesso. Certamente. Prossimo incrocio, peraltro Maurizio Crosetti, prima di chiudere, mica male, derby di Roma e Napoli Juventus. No, per niente male, la Juve non potrà essere solo Ju a Napoli, assolutamente. E anche se è intera, se torna a essere Juve completamente. No, se la giocherà su un campo molto difficile, non c'è dubbio, ma anche la Roma, la Roma contro Felipe Anderson e questi assatanati laziali che sembrano aver ritrovato il passo, non potrà accontentarsi del millimetro del dubbio, del sospetto, del rigore non dato, insomma dovrà essere la Roma che non perde le occasioni. Il fatto è che ne ha perse tante. Sì. È vero che la Juve pareggia sempre, ma è anche vero che la Roma ne approfitta poco. Sì, due vittorie, due pareggi nelle ultime quattro. Quindi è anche il bello del campionato, dell'equilibrio, e anche il fatto che tutte e due le protagoniste perdono dei colpi, altrimenti una sarebbe via come sempre, come negli ultimi anni, e forse ci annoieremmo. Invece il campionato promette qualcosa in più, proprio forse in virtù dei limiti più che delle qualità delle due squadre. Ed è un campionato, fra l'altro, che se dovessero succedere risultati clamorosi a favore di Napoli e Lazio domenica si potrebbe anche riaprire, nel senso che comunque alla fine le distanze sono 10 punti tra la Juve e la terza, insomma se dovessimo arrivare alla fine del girone d'andata con 6-7 punti. Su questo sono parzialmente d'accordo. No, io penso che sarà una lotta Juve-Roma, però voglio dirti che Napoli e Lazio arrivano a questa partita secondo me con l'illusione, nel senso spagnolo del termine, no? Come la possibilità, l'obiettivo, l'aspirazione al sogno che è quello di poter in qualche modo anche riaprire una lotta più grande del terzo posto. Pierluigi Stalì, Maurizio Crosetti, grazie. Un abbraccio. Ciao, a voi. Ciao. Tutti convocati. Allora qui ci devono aiutare le immagini. La palla non è sicuramente rimbalzata oltre la linea, secondo me, per come ho visto io. Secondo me non è gol, Maurizio, perché rimbalza sulla linea di porta, non completamente oltre. Mi è sembrata così. Abbiamo la linea ovviamente impallata, scusate, gioco di parole, dal palo. Il palo comunque è la linea di porta. Vediamo se il pallone si vede tutto. Il pallone non si vede tutto. Non è gol. Sei tu. Succederà più che torni alle tre e io mi addormento senza te. Da qui però, Luca. Sì, ma l'immagine non è questa, Maurizio, è quella. Però magari se, più tardi, se riusciamo a bloccare, perché da questa immagine, proprio linea, potrebbe essere entrato del tutto, insomma, qualche dubbio c'è. Sul gol non è che oggi cambio idea sul fatto che con la goal light technology non ci sarebbe stato polemiche, perché il gol c'è, ma se c'è qualcosa di sicuro sarebbe meglio per gli arbitri. C'è anche sudditanza, perché c'è il discorso di Garcia qui, che è già un buon paio di tempo che ha preso il vizio italiano, era venuto qui in punta di piedi, una persona per bene, ha dimostrato essere un grande allenatore, improvvisamente si è messo a schiamazzare contro gli arbitri e compagnia bella. Una cosa che fa da un mese a questa parte sono rimasto molto sorpreso, perché effettivamente tutti gli stranieri che vengono in Italia hanno il loro stile, cioè noi purtroppo italiani dovremmo cambiare le nostre abitudini, cerchiamo tutti di fare un po' i furbi, no? E questo non va bene, e lui ha preso questo andazzo, speriamo che cambi. Allora vorrà dire che l'anno prossimo vedremo la goal line technology. Gli arbitri di porta costano alla Federcalcio totalmente 1.400.000 euro. La Federcalcio deve tagliare 4 milioni. Salteranno le teste degli arbitri di porta. Comunque, non sentiremo la mancanza. Posso adesso ho sentito compagnoni marchigiani. C'è Massimo Cecchini in linea, eh? Allora gli diamo il benvenuto subito, assolutamente. Ciao Massimo. Buon pomeriggio a tutti. Volevo dire proprio perché ho sentito compagnoni marchigiani che erano i miei vicini di posto, ogni tanto ci guardavamo anche. È complesso, è difficile, cioè io vorrei che la gente si rendesse conto che è complesso ed è difficile, non è che uno vede quello che vuol vedere, vede quello che riesce a vedere. Ieri c'era un problema, secondo me oggettivo, ne ho parlato anche con Giorgio Gallica, il regista di Sky. Sapete che le partite vengono prodotte o da Sky o da Mediaset a rotazione, per un discorso di ottimizzazione dei costi, le immagini sono praticamente le stesse al di là di qualche integrazione che Sky e Mediaset possono mettere, ma insomma le immagini sono state le stesse. Ieri c'erano due immagini fondamentali, quella sul palo, che però, parlando con Giorgio Galli, appunto con il regista a fine partita, per essere realmente un'immagine decisiva dovrebbe stare all'interno del palo, cioè ci dovrebbe essere la telecamera incastonata all'interno del palo, perché a quel punto tu non avresti lo spessore del palo che ti impalla, come diceva Compagnoni e come ho detto io in telecronaca. Quell'immagine lì, onestamente, è un'immagine che non chiarisce. Certamente se si fosse visto il pallone completamente dentro, con quell'immagine lì non c'erano dubbi, ma c'è lo spessore del palo che comunque è più largo della linea di porta, e quindi bisognerebbe mettere la telecamera all'interno, incastonata all'interno appunto sul palo interno. A quel punto dovresti la riga dritta e forse riusciresti a capire. L'altra immagine, quella dall'alto, invece è un'immagine perfetta nel dimostrare che la parte di pallone che ha toccato per terra era oltre la linea, perché la linea verde comunque tu la vedi, no? Vedi il bianco della linea, la strisciolina verde e il pallone, quindi vuol dire che la parte del pallone che ha toccato per terra sicuramente era in gol. Però ti dicono quelli che ancora sostengono che non fosse gol, che il diametro del pallone nella sua proiezione ortogonale, qui torna in mente il vecchio liceo scientifico, cioè nella parte alta, siccome il diametro non è un cubo, no? E quindi si apre, si allarga, nella sua perpendicolare forse poteva essere sulla linea di porta. Io però vi dico che mettiamoci l'anima in pace, e poi soprattutto semmai c'è un altro tema, che è quello del rapporto fra arbitro di porta e arbitro, perché ieri è evidente che l'arbitro di porta ha preso una posizione che l'arbitro principale, che poi è quello che ci mette la faccia, ha completamente ribaltato. Allora a questo punto sarebbe quasi da dire, ma allora l'arbitro di porta a che serve veramente? Comunque, Massimo Cecchini oggi, nello spiegare tutte queste cose sulla Gazzetta dello Sport, ha scritto un ritratto molto interessante anche su Garcia, no? Fra Dr. Jekyll e Mr. Hyde, un Garcia che è arrivato da noi dicendo vabbè, l'arbitro sbaglia, pazienza, regole del gioco. Adesso chiaramente ha cambiato strategia e abbiamo sentito prima Pozzo e non abbiamo ancora sentito la Juventus, però mi sembra abbastanza evidente la strategia perseguita in questo momento da Garcia e dalla Roma. Massimo. Sì, in effetti qualcosa è cambiato rispetto all'allenatore che 18 mesi fa era arrivato in Italia. Adesso mediaticamente si propone in modo più muscolare, più alla Mourinho, ha creato alcuni slogan dell'assedio o della Roma solo contro tutti, che ha fatto ricordare a molti Mourinho, mentre l'anno scorso tendeva più a spegnere il fuoco piuttosto che accenderli. È una strategia anche questa. Lui, non dimentichiamo che solo il 2 gennaio in una conferenza stampa, soltanto per i giornali alla carta stampata, ci ha raccontato questo. Insomma, noi un po' sappiamo degli allenatori. Io sono anche un po' un attore, io quello che dico non credo in quello che dico, però alcune volte occorre dire delle cose e io le dico, quindi questa strategia comunicazionale fa sì che qualche volta un allenatore dica la verità, qualche volta dica la verità che crede sia giusto dire perché la gente deve ascoltarla. Sì. Poi in questo caso lui ieri ha difeso a spada tratta l'operato dell'arbitro, ma anche in altre situazioni. Io guardavo la partita con il Sassuolo, che noi sappiamo che tanti dubbi hanno lasciato gol della Roma col Sassuolo. Sì, che poi c'è stato Roma-Milan in mano di De Jong, cioè lui, c'è stato adesso passa sempre all'incasso. Passa sempre all'incasso, cioè nel senso tutto quello che viene fatto a beneficio della Roma è giusto così, come si è fatto rifanno per altre squadre. Ecco, eravamo abituati a un altro tipo di profilo, l'anno scorso tendeva un po' a dire, a smorzare un po' le polemiche, ma 18 mesi di calcio italiano penso che cambierebbero chiunque, sono portato a giustificare. Pensi così anche tu, Pier? In questo sono laico, cioè sono dell'idea che comunque alla fine sono anche machiavellico, cioè un fine giustifica il mezzo. Del resto in Italia è passato un signore che si chiama Mourinho, che ha vinto tanto e che è stato molto amato e molto odiato, ma che aveva uno stile di comunicazione ancora più pesante rispetto a quello di Garcia. Del resto in Italia c'è uno che io stimo moltissimo, che si chiama Antonio Conte, che è uno che insomma non... se c'era da fare un po' di guerriglia mediatica non si tirava certamente indietro, lo faceva nell'interesse esclusivo del suo club e quindi di se stesso, ed è la cosa che sta facendo Garcia, se è giusto o sbagliata non lo so. Certamente, insomma, ieri la Roma non è stata danneggiata, ecco, questo non ci sono dubbi, non tanto dall'episodio del gol, secondo me, quanto dal calcio di rigore, che sommato comunque al dubbio che ci poteva essere sul gol, alla fine hanno portato a un certo tipo di risultato. Quindi da questo punto di vista poi c'era stata anche Sassuolo, c'era stata anche Genoa. Detto questo, poi lo scontro diretto è chiaro che, per come è arrivato a quel punto dopo 5 giornate fra due squadre a punteggio pieno, ha avuto una sua pesantezza. Quindi insomma, se senti gli juventini ti dicono che la somma algebrica delle ultime giornate ha ampiamente superato lo scontro diretto, se senti i romanisti ti dicono l'esatto contrario. Sì. Io sentivo prima il direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto a Sport Mediaset, che diceva che l'unico modo per riequilibrare Torino dell'andata sarà nello scontro diretto del ritorno, e c'era invece Reggia che diceva l'esatto contrario. Insomma, il dibattito è aperto, però io sullo stile di comunicazione degli allenatori è cambiato Garcia, è chiaro che è cambiato. Stasera fra l'altro noi a Tiki Taka avremo Candelà, che è un altro francese che si è molto romanizzato nei suoi anni, no? E quindi sarà interessante sentire anche il suo punto di vista. È chiaro che è un po' meno francese ed è un po' più romano, sicuramente si è legato molto all'ambiente, o forse ha capito che in Italia può essere utile anche smuovere certe leve, certe logiche. Sì. Massimo Cecchini, come valuti i toni morbidi della Juventus invece? Abbiamo detto Marotta, ma non ci sono reazioni forti della Juventus, cioè non c'è, il confronto verbale in questo momento non esiste, è tutto da una parte. Ma sai, se dovessi essere cattivo potrei dirti che è facile con i morbidi quando in genere le cose vanno sempre, quasi sempre nel migliore dei modi possibili, storicamente, non parlo nella contingenza e nell'attualità, però la Juve quando tira fuori gli artigli, e giustamente Pierluigi ricordava Conte... Dopo Parma, ti ricordi? Fu pesantissimo. Oppure anche quest'anno, anche dopo il 3-2 nello Juventus, non mi sembra che Lady Agnelli sia andata tenera quando si trattava di rimbrozzare Totti in... Quindi quando si vince è più facile usare il fair play. Detto questo, sono convinto che al sistema calcio avvelenare i pozzi non convenga. Può ha ragione Luigi quando dice che probabilmente un certo tipo di strategia comunicazionale alla Mourinho può aiutare ad avere risultati, ad avere risultati contingenti utili, ma in prospettiva avvelenare la verità, ma che cosa è successo ieri sul web quando i commentatori raccontavano quello che stava succedendo, credevano succedesse? Io ero proprio alle spalle di Pierluigi dalla postazione di Sky, Pierluigi lo ricorderà, ieri i colleghi devono raccontare in diretta un fatto su cui io ho la fortuna di dover scrivere con ore di distanza, posso rivedere, posso sentire esperti, rivedere Moviola, il giornale uscirà il giorno dopo. I colleghi commentano in diretta un fatto su cui hanno mille dubbi. Sono stati presi d'assalto sul web, insulti chi dice che è gol, insulti chi dice che non è gol. Ma ecco, alla fine avvelenare i pozzi conviene fare muscolari. Ma quello voglio dire, per carità, sul web si scrive di tutto e poi alla fine ma ieri in tempo reale sono arrivate mille immagini diverse a seconda del colore della fede. Sinceramente ieri non c'era neanche bisogno di inventarsene le immagini, perché ieri noi avevamo due immagini che sembravano dire una il contrario dell'altra, insomma, quindi ieri non c'era neanche bisogno di fare chissà quale Photoshop. Ieri è stato veramente un caso per certi versi veramente di scuola. Ti raccontavo ieri che Pierluigi Collina mi ha telefonato, è un ascoltatore fedele di tutti i convocati, il 24, mentre stavo scendendo in macchina verso Roma, avevamo parlato lungamente del discorso dei giudici di porta e avevamo fatto una bella discussione sul fatto che invece l'UEFA manterrà i giudici di porta, e mi aveva detto appunto che in Italia non c'erano, da quando c'erano stati i giudici di porta non erano praticamente mai stati fatti errori su gol non gol, gli errori erano precedenti, il famoso gol di Muntari, il gol di Baricarpi di quest'anno sono in situazioni dove il giudice di porta non c'è. Sì. Guarda caso la prima partita del 2015 poi si è verificata una situazione che ripeto è al limite, perché la Goal Line Technology comunque ha una tolleranza di un centimetro e mezzo, quindi certo. Avrebbe dato un verdetto, ma nello stesso momento quelli che c'hanno la macchina avrebbero detto, però se stiamo parlando too close to call, ribadisco, l'ho detto anche ieri in telecronaca, too close to call è quello che si dice nelle elezioni americane quando non sai, c'è il margine è talmente stretto che non puoi dare subito certo, un giudizio certo. Questo è quello che è successo ieri, però veramente io ringrazio Massimo della solidarietà, lo dico in generale, lo dico in assoluto, perché veramente insomma uno commenta quello che vede e in certi casi quello che vede è difficile da commentare perché una certezza non ce l'hai. Un conto è il tifoso che sta da casa e c'ha la fede o per una squadra o per l'altra e ha solo certezze, beato lui, e va benissimo così, è anche giusto che lo esprima, io non mi offendo, non ci sono problemi, però a raccontare in diretta a tutta l'Italia quel fatto lì con delle immagini che non ti aiutano è un po' più difficile. Massimo, favorevole o contrario a Goal Line Technology che vedremo l'anno prossimo? Ma assolutamente sì, assolutamente sì. La tecnologia del gol non gol, viva non, Dio! Assolutamente, non ucciderai i complottisti rimarranno sempre, cioè ci sarà sempre chi crederà che le immagini sono prodotte da uno piuttosto che un altro e quindi andranno a vedere i consigli di amministrazione di questi e diranno giusto. Ah, sono fatti di questi, questo nel board ci sarà questo e quindi le immagini sono adulterate, quindi mettiamolo già nel conto, quindi partiamo che ci sia ti ricordi certo la polemica posto. Massimo, ti ricordi la polemica sui registi televisivi quando cominciò ad esserci la prova TV, no? Ma come? No? Quel regista, quello di quello della Lazio, quello della Roma, ma dai ragazzi, ma di che stiamo parlando? Pierluigi, ma diciamoci la verità fra di noi, ma quante volte hai sentito dei dirigenti che si sono lamentati con voi piuttosto che con Sky dicendo però voi favorite quelli, quante volte cioè dirigenti che dovrebbero guidare il nostro calcio, quante volte sono venuti a dirlo? Sì, beh, l'importante è non farsi condizionare, su questo non ci sono dubbi, però io credo che quello sia veramente il tema, insomma io credo che sarebbe un grande sospiro di sollievo prima di tutto per gli arbitri, perché adesso poi il telecronista alla fine è secondario, ma l'arbitro che deve prendere il tempo, cioè io vorrei che dalla polemica di ieri noi per un attimo soltanto tutti i tifosi d'Italia si immedesimassero cercando di presupporre la buona fede in un arbitro, in un giudice di porta che a velocità supersonica, perché il calcio di oggi è supersonico. Deve prendere una decisione per cui verrà crocifisso. Sono pagati, sono preparati, capito? Deve prendere una decisione per cui comunque verrà crocifisso. Una decisione della quale dopo un giorno e mezzo ancora, no? Cioè, Moviole contro Moviole, la parallassi, ho sentito delle cose sotterrate al liceo scientifico, ho sentito delle robe, veramente ci mancavano soltanto gli integrali. Abbiamo sembrato ieri io sono uscito, Massimo era lì, veramente stanco dalla partita, perché a me, io sono un bambino, mi piace raccontare il calcio, la bellezza del calcio, i grandi giocatori, quella giocata di Natale lì con quello scavetto sotto, mi piace raccontare quello, è chiaro, se capita però bisogna commentare, sappiamo, però ieri non è più, solo più la partita sembrava una lezione di geometria, divertito. Sì, come andare a scuola e fare due ore di geometria più o meno. Grazie Massimo Cecchini. Grazie a voi. Pier, sta lì ancora un attimo, abbiamo il traffico di corsa, poi abbiamo un sacco di ascoltatori, 80024 0024 numero verde. Tutti convocati. Non mi esprimo assolutamente sugli episodi di oggi. Io dico che il campionato verrà vinto dalla squadra che avrà due caratteristiche finali: essere in assoluto la più forte e quella comunque che nell'ambito dell'economia, delle decisioni arbitrali avrà un equilibrio. E quindi credo che tutte le squadre comunque poi alla fine tra vantaggi e svantaggi si equivalgono. Non posso addebitare la mancanza di una vittoria di uno scudetto a un errore arbitrale. Essendoci così tante partite è difficile che ci sia un filotto di episodi favorevoli. Durante l'anno ci sono episodi che vanno a favore, episodi che vanno a sfavore. Quindi da questo punto di vista bisogna debellare le congetture che portano a favoritismi. Dall'altro dico che il valore assoluto è quello che porta alla vittoria del campionato, è quello di dire vince la squadra migliore, e su questo non ci sono dubbi. E questo sappiamo, era Marotta. Massimiliano da Bologna, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per essere convocato e grazie della compagnia che mi fate, visto che io lavoro sempre in auto e quindi vi ascolto con molto piacere. Ascolti, io volevo solo fare un'osservazione e poi aspetto sempre il vostro commento. Io sono un tifoso della Juventus, devo dire sportivo parlando, che per me Garcia è un allenatore eccezionale, perché comunque ci dimentichiamo che due anni fa la Roma è arrivata settima perdendo un sacco di partite, quindi secondo me è un ottimo allenatore. Però devo dire la verità, come comunicatore a number one Mourinho gli fa le scarpe, perché per me, io lo sento nelle interviste, è un comunicatore eccezionale. Lui dopo Roma-Sassuolo è riuscito a abbassare i toni e ritornare a parlare di Juve-Roma, perché chiaramente gli faceva comodo, perché noi parliamo della partita di ieri, ma quello con Sassuolo è stato qualcosa di clamoroso. Quella con la Juve, probabilmente la Juve ha avuto dei vantaggi, è innegabile, come ieri forse li ha avuti la Roma, e come dice giustamente Marotta, probabilmente si arriverà in fondo che più o meno le cose si equivalgono. Quindi ha ragione Marotta, sulla lunga durata, sulla lunga distanza, sulla maratona, non sono i singoli episodi o il filotto di episodi che fa la differenza. La differenza certamente è stata fatta fino adesso, quella evidente, insomma, nel confronto diretto, no Pier? Sì, io non, ripeto, non mi appassiona molto l'argomento, quindi non ho il quadernino con la classifica parallela. A me sembra, così vedendola da fuori, non mi sembra un campionato che in questo momento abbia un ordine costituito. Cioè, io l'idea del complotto, a parte, la rifiuto a prescindere, ma mi sembra che non sia nel caso supportata dai fatti, perché certamente, insomma, la Roma aveva dei motivi sacrosanti di recriminazione dopo la partita di Torino, però se ci fosse il complotto per far vincere lo scudetto alla Juve, poi magari il rigore col Sassuolo non te lo danno, o danno il rigore all'Udinese ieri. Per cui io non vedo sinceramente, né da una parte né dall'altra, ad oggi una spinta per aiutare qualcuno, no, per danneggiare. C'è un confronto diretto, la evidente, la rifiuto a prescindere, ma sì, ma la differenza, il peccato originale è il confronto diretto, messa, no? Non è neanche messa in qualche modo, questa mia idea candida, non è neanche messa a dura prova dai fatti, perché i fatti mi sembra che parlino di errori, certamente, ma di errori che sono avvenuti da una parte e dall'altra. Semmai, se vogliamo guardare complessivamente, forse vale quel discorso che vale sempre nella vita, della sudditanza implicita che hai nei confronti dei grandi, e quindi probabilmente in questo le grandi squadre, che in questo momento sono soprattutto Juve e Roma, ma non sono sempre loro storicamente, hanno magari qualcosa in più, no? Per una sorta di normale deferenza che tu hai nei confronti di Verenza, che tu hai nei confronti di quelli che sono, di quelli che fa parte dell'animo umano, che è sbagliata, ma in qualche modo fa parte, chiaramente. Anche perché se è un arbitro vuoi dirigere grandi partite, quindi non vuoi essere, tra molte virgolette, ricusato dalle grandi squadre. Questo, ma questo accade però, questo da però tutte, è un meccanismo più grave, accade ovunque, e però esiste, accade ovunque, questo in tutti i campionati del mondo. Mario, provincia di Asti, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Vorrei fare una riflessione, sono un tifoso del Toro e un po' preoccupato. Io spero che la dirigenza del Toro, io non ho mai criticato il presidente Petracchi, il buon Ventura, che io ce lo conservi a lungo, però c'è da riflettere su questa situazione. La differenza tra una buona squadra con due attaccanti e una buona squadra senza due buoni attaccanti, ed è la differenza tra il Toro e il Palermo. Sì. E questo dovrebbe far riflettere. Ragazzi, il Palermo ha un paio di giocatori che gli altri non hanno, non solo il Torino. Sì, ma al di là dei. Adesso mi è venuto il Palermo perché comunque ha due veramente bravissimi giocatori davanti, veramente bravi. E io sono un po' preoccupato perché vedo una società francamente un po' inadeguata. Siamo sempre lì, questo è un discorso vecchio. Io leggo invece una classifica che dice Torino 18 punti insieme all'Empoli dal Verona, comunque sopra la zona salvezza di 6 punti. Dico, il Torino grosso modo sta facendo la sua normale stagione e continuo a pensare sì, questo. Però io ho visto la partita con l'Empoli e la partita di ieri, francamente. Mi sembra una, grosso modo, una dimensione da Torino. Certamente manca qualche punto, manca probabilmente un attaccante che la butti dentro, perché cioè, onestamente l'anno scorso c'erano Cerce Immobile, quest'anno non ci sono più, ci sono Quagliarella e Amauri che la prendono Manca certamente qualche punto, i rigori sbagliati, qualche situazione, anche il derby perso all'ultimo secondo più che all'ultimo minuto. È una partita che il Torino poteva sicuramente almeno pareggiare. La classifica non è particolarmente preoccupante, il Torino ha un mese secondo me per sistemarla facendo anche mercato, sicuramente ne abbiamo parlato varie volte, l'attaccante è la priorità assoluta, ma l'ha detto anche Cairo in diretta da noi, quindi insomma penso che ci stia lavorando, e poi secondo me da febbraio ricomincia la cosa più interessante che ha fra le mani il Torino in questa stagione, che è l'Europa League, perché secondo me andare avanti, eliminare quello, ed è una cosa possibile perché l'Athletic Bilbao fa paura come nome, ma insomma è una squadra di metà classifica in Spagna, e insomma pensare di poterlo eliminare e continuare a divertirsi in giro per l'Europa, secondo me è la cosa più arrapante che ha il Torino, certo, in questa situazione. Certo, nel prossimo mese deve togliersi ogni patema, quindi deve fare un po' di punti e serve un attaccante per farli e per arrivare a una sana metà classifica, sì, dalla quale poi poter cercare l'Europa. Antonello, provincia di Alessandria, poi salutiamo Pierluigi che si tuffa in tiki-taka. Sì. Antonello, buongiorno. Buongiorno. Io volevo semplicemente dire che io sono un tifoso del Cagliari e pertanto, vista la situazione, cioè insomma abbiamo poche speranze. L'unica cosa che mi spiace è che un professionista serio come Gianfranco Zola abbia accettato una impresa così ardua. Non avrebbe dovuto accettare questa cosa, avrebbe dovuto lasciare che Zeman risolvesse lui e il presidente tutto il pasticcio. Ma lei l'avrebbe cacciato Zeman? L'avrebbe mandato via? No, io l'avrei lasciato, non l'avrei cacciato assolutamente. Anche perché ho visto le partite, ho visto il Milan col Cagliari, ho visto il Cagliari con l'Empoli, ho visto il Cagliari con la Sampdoria, col Napoli. Cagliari giocava bene, nelle ultime due giornate di Zeman non era più la stessa squadra e ieri con Zola peggio che peggio, insomma. Io non capisco, perché io sono sardo e capisco l'affetto di Gianfranco Zola verso la squadra dell'isola. Sì. Bisogna capire con un allenatore particolare come Zeman dove stava la squadra. Dicono che i giocatori fossero con l'allenatore Boemo e se è così probabilmente è stato anche un errore mandarlo via. Sappiamo bene, però ripeto, come Zeman sia un allenatore particolare che ti chiede dedizione totale e assoluta per uno stile di gioco che è molto suggestivo, molto particolare e molto rischioso, Pierluigi. Sì, ma sicuramente sicuramente. Sicuramente Zeman è un rischio, è un azzardo, è una scommessa. Bisogna, se lo prendi, secondo me devi dargli fiducia, anche se insomma, sicuramente la classifica non è che fosse delle migliori. Ha avuto delle oscillazioni di rendimento in pieno stile Zeman, nel senso che il Cagliari, per essere una squadra terzultima in classifica, comunque ha fatto una serie di partite. Penso a quella con l'Inter, penso anche per esempio a quella col Napoli, cioè ha fatto delle partite eccezionali. Poi sicuramente la situazione stava franando, il problema non era soltanto Zeman, il problema adesso non è certamente Zola. Io credo che il Cagliari debba nei prossimi 30 giorni, come ha fatto per esempio il Sassuolo l'anno scorso, ma bisogna avere ovviamente anche le disponibilità, cambiare tanto, rinforzarsi, perché la Serie A è un obiettivo importantissimo, insomma la salvezza è un obiettivo importantissimo. Sicuro. Anche dal punto di vista economico è un investimento che credo che Giulini possa fare. Pier, chi hai stasera? Attività, Pier? Stasera ho Tacchinardi, ho Candelà, ho Salvini, insomma avevamo avuto Renzi, stasera abbiamo Salvini, chi parlerà di Milan, abbiamo un grande collegamento con Napoli, ne ricorderemo Pino Daniele, ci collegheremo con il funerale, abbiamo ovviamente Raffaella Auriemma, ci piace pensare che un po' dello spirito di questo grande artista insomma si sia trasferito ieri nella squadra che ha giocato, è vero, cioè, sei andato nella squadra eccezionale, però ha comunque giocato una partita molto ispirata e comunque insomma sarà un modo per ricordarlo, perché aveva una passione per il calcio ed era stato uno dei grandi ambasciatori della napoletanità in giro per il mondo e per l'Italia, perché è un grande artista, insomma, e sai che noi amiamo molto le contaminazioni. Poi Mughini, poi ovviamente Satta, Francesca Barra, il grande Bruno Pizzul, che il grande Battaglia, io immagino. Ma sì, poi Cesari, poi ci portiamo, insomma. Cerchi, però io guarda, ti dico, al di là delle polemiche, ovviamente, del bar, sì. che mi piacerebbe insomma, riuscire nei limiti del possibile a essere costruttivi, un po' perché l'ho anche vissuta la cosa di ieri, quindi certo. L'ho vissuta in prima persona. Ieri ci sono delle cose, per esempio quella telecamera sul palo. Il discorso... devo chiudere ciao, perché ciao, ciao, ciao, sentiamo ciao, domani. Ciao ciao ciao ciao. Ciao. Ciao. Convocati. Buonaventura. Punta l'avversario. Riesce a crossare El Shaarawy, fermato poi Poli. E il Milan è posto in vantaggio con il gol di Andrea Poli al 9 minuto, 1-0. Berardi, zona tiro, va da Sansone, buono il pallone, controlla Sansone. Il pareggio del Sassuolo con Nicola Sansone, 1-1. Batte Berardi, sinistra ad uscire, conclusione dal volo, splendida di Simone Zaza, Sassuolo in vantaggio, ci pensa Zaza, 2-1. Quando si perde non bisogna trovare colpe, colpevoli, insomma, io mi assumo le mie responsabilità, probabilmente potevo fare qualcosa in più e niente, andiamo avanti. Quando si perde è giusto che le colpe si riprenda l'allenatore. Preferisco, trovare colpevoli non mi piace. Franco Ciccio ordina dal giornale, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno. Perché il Milan cammina come i gamberi? Perché hanno sbagliato la preparazione durante la sosta invernale. La squadra è stata in piedi, ha accelerato, ha fatto gol, ha sfiorato il raddoppio, 20-25 minuti, dopodiché si è letteralmente seduta, e quindi questa è il primo, la prima responsabilità che va ascritta al tecnico e al suo staff. E poi ci sono le altre, cioè questa è una squadra, è un gruppo che ha una modesta cifra tecnica, per cui rende al massimo solo e soltanto quando ha al massimo tutti i valori. È come una macchina per poter andare benissimo deve avere sempre il serbatoio pieno, le gomme appena fatte, lo spinterogeno appena lucidato, insomma deve avere tutti i meccanismi, tutti i congegni che funzionano alla perfezione. L'acquisto di Cerci è quello che serviva al Milan? Beh, serviva sì, perché a questa squadra serve un sacco di servirebbero un sacco di giocatori. Sì, se facciamo l'elenco di quello che servirebbe, facciamo notte. È evidente che non avendo fino a fine gennaio Honda, che era quello che garantiva, oltre che il gol, anche una bella copertura in fase difensiva, gli si apriva una falla, e con Cerci è stata coperta questa falla. Naturalmente il Cerci che è arrivato qui non è il Cerci migliore a disposizione, è un Cerci che ha una ridottissima autonomia, che ha una condizione fisica tutta ancora da levigare, e quindi bisognerà aspettarlo almeno due o tre settimane prima di vedere il Cerci migliore. Franco, ha un senso insistere ancora su Esharawi? Ieri tra l'altro contestato, è un giocatore in piena involuzione, è comunque un attaccante che fa anche tanti altri lavori, ma un attaccante deve fare i gol. Sì, ma condivido l'obiezione, non condivido la parte finale, l'interrogativo, nel senso che allora, nei 20 minuti in cui il Milan è andato a 100 all'ora, lui ha mancato di un soffio l'assist per il 2-0, no? Altrimenti il Milan passava al raddoppio. Ma poi dopo, per il resto della partita, ha avuto pochissime palle da giocare, sì, e soprattutto pochissime occasioni in cui tirare in porta. Sì. Questo è in questo momento il limite grave del Milan, quando il Milan ha per esempio l'unico genio a disposizione in fase calante, cioè Menes. Sì, in fase calante non so quanto giudicabile una partita come ieri, fino adesso ha cantato e portato la croce. No, in fase calante nel senso che non si accende con la continuità con cui si accendeva prima. Esatto. E la posizione di Pazzini qual è? Ma guarda, la posizione di Pazzini, io devo dire, quando è entrato ha fatto le cose che deve fare un centravanti d'area di rigore, e cioè ha avuto una sola palla giocabile in acrobazia, ha fatto fare un paratone a Consigli. Questo è il Pazzini che serve, bisognerà utilizzarlo forse con la cessione di Torres. Da questo punto di vista ha eliminato della concorrenza per un giocatore. Comunque Inzaghi non vede paradossalmente un centravanti nella sua squadra, funziona meglio con Menez, però ce n'erano due, adesso ne è rimasto soltanto uno. Ma adesso l'obiettivo qual è? Adesso dove si guarda? Va bene che è una classifica liquida, come abbiamo detto molte volte, in questo momento ci sono Lazio e Napoli che si sono messi a correre più velocemente, Genovesi un po' in flessione forse, e di sotto c'è il Milan che comunque ha 5 punti dal terzo posto di Lazio e Napoli. La distanza non è chilometrica, però il problema è che per poter colmare questa lacuna, agevolato il fatto che c'hai soltanto il campionato e poi la Coppa Italia, poi la Coppa Italia c'era con Sassuolo, per cui Olimpio si mette male pure con la Coppa Italia, ma voglio dire, se fai una striscia di risultati, sei nelle condizioni di farlo. Io ti devo dire che, per esempio, ho molto apprezzato la scelta di Mancini e dell'Inter di puntare sul mercato soltanto sull'attacco, perché il ragionamento molto terra a terra è il seguente: se noi vogliamo recuperare il distacco del terzo posto dobbiamo fare gol, dobbiamo vincere più partite, e per partite, come dice il presidente Berlusconi, bisogna fare gol. Per fare gol ti devi avvicinare alla porta e tirare. Per avvicinarti alla porta e tirare devi portare il maggior numero di attaccanti avanti. Certo, c'è anche chi sottolinea giustamente stiamo parlando del Milan, processo al Milan, preparazione sbagliata, Menez che non va, e Pazzini che non fa gol, eccetera. Però Sassuolo, 11 italiani su 11, una squadra meravigliosa. Ma in che senso dici 11 su 11? 11 erano 11 italiani su 11 in campo all'inizio. Cioè, una squadra totalmente italiana, capita raramente questo, eh? Non soltanto totalmente italiana, ma una squadra di buona fattura. Io ti dico che ieri, dal punto di vista poi un calcio mica difensivo, cioè il 4-3-3 classico, io ti dico che ieri, per esempio, io devo dire, l'avevo visto, però non è che mi avesse mai impressionato, ma Missiroli andava a 200 all'ora. Sì. Bernardi, la preparazione non l'hanno sbagliata, mi sa. No, tutt'altro. Sono stati a casa loro, al freddo, come diceva la canzoncina, al freddo e al gelo, e durante le stanze hanno pedalato sicuro, perché ieri, dopo il rimbambimento che 25 minuti, 30 minuti, che è probabilmente il miedo scenico di San Siro, visto che ci avevano preso tutte pappine dall'Inter, hanno preso in mano il pallino del gioco e non l'hanno più mollato fino alla fine. Grazie Franco, buon lavoro. Un abbraccio. Ciao Franco Ordine. Torniamo agli ascoltatori. 800240024, numero verde. Mario da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei, sono Mario da Bergamo. Ah, da Bergamo, cominciamo con il Giro d'Italia sbagliato. Diciamo, è un po' vicino, via. Sì. Buon anno a tutti. Buon anno anche a lei. Ascolti, io telefonavo per questo, purtroppo da polemica a polemica si alza la voce e si va avanti, però volevo dirle sul fatto di quell'allevatore un po' presuntuoso, però anche la memoria corta, e sì, le spiego il perché. Sì. Allora, lui continua a parlare della partita Roma-Juventus, l'arbitro ha sbagliato indubbiamente, ma l'errore più grosso l'ha fatto il decimo del primo tempo, quando c'era un rigore a favore della Juventus, così sembra, e la Roma giocava in 10. Sì. Seconda cosa, torniamo a Monte. Ma lui non può dire che l'arbitro ha sbagliato indubbiamente, però l'errore grosso è l'inizio. Sì. Ecco, altra cosa, la memoria corta, mi sembra che l'anno scorso la Roma ha eliminato la Juventus in Coppa Italia con qualche gol annullato alla Juventus che era valido. Sì. Dunque, ecco, lei dice quello che la memoria corta, sì. Garcia non ha molte ragioni di lamentarsi perché comunque i suoi vantaggi li ha ottenuti. Ma lei cosa ne pensa del... Oh, è chiaro che lei è juventino, no? Sì, certo. Questo è acclarato. Cosa ne pensa della strategia invece del silenzio, della strategia del basso profilo tenuta dalla Juventus in questo, che non è nemmeno un dibattito, perché abbiamo sentito Marotta anche ieri, toni molto, molto pacati. Preferirebbe una Juventus un po' più aggressiva sul fronte della dialettica? Guardi, qualsiasi cosa si dice è sbagliata. Mio nonno mi diceva che un buon silenzio non fu mai scritto. Sì. Giusto? Vecchia saggezza. Se dobbiamo, c'entra, perché se uno comincia a dire ma tu hai fatto così con Sassuolo e hai avuto vantaggi, quello gli dice ma tu hai avuto vantaggi col Torino, tu hai avuto vantaggi con l'Avellino, tu sì, hai avuto... qua non si arriva più. Sì. L'errore indubbiamente c'è, e anche il discorso di ieri che si fa tante polemiche su questo gol, ma qualsiasi cosa faceva l'arbitro, era parte che l'arbitro fosse va torto e ha ragione, ma se le dava se non le dava rigore erano polemiche, giusto? Se non le dava il gol o se rigore? Non le dava il gol alla Roma, sì, erano polemiche, certo, ma poi molti dicono vabbè, ma l'episodio più eclatante non è stato tanto quello, che era molto difficile, che era il rigore. Eh sì, molti dicono. Ecco, rigore non dà. Ecco, però sul gol lì indubbiamente la persona arbitro anche se mette la moviola o il flash, la luce lì, non sono mai d'accordo. Perché sì, se lei fa una... Beh, ma insomma, non sono d'accordo. Una volta che decidiamo di utilizzare la tecnologia, se poi non siamo d'accordo nemmeno sulla tecnologia, vabbè, ce ne faremo una ragione, no Mario? Cioè, sappiamo che c'è una tolleranza di 1,5 cm, quindi anche lì, nei casi più estremi, può capitare che l'occhio di falco, di pernice, di lince, la goal line technology faccio un errore, però a quel punto io credo che si possa andare via sereni, no? Se poi ci saranno degli episodi, nuovamente gli episodi che per 1,5 cm diventano irrisolvibili, vabbè, a quel punto ci metteremo una mano sulla coscienza, diremo. In certo modo cambia tutto, capisce? Poi mette 5 saggi. 5. Diciamo il numero dispari, eh. Ma non mettiamo guardi Mario, lasciamo stare i saggi e la moviola, no, per favore, perché sennò facciamo notte. Io sono d'accordo sulla goal line technology, cioè sulla tecnologia sulla linea di porta, lo sono sempre stato, che sia il chip nel pallone o quello che si vuole utilizzare, perché è una questione puramente geometrica, però non sono d'accordo nel mettere in discussione la discrezionalità dell'arbitro su situazioni di gioco, ma questo è semplicemente il mio pensiero. Mario da Bergamo, Roma-Bergamo, la saluto, la ringrazio, vado in provincia di Latina, credo che Dante sia lì, buongiorno. Buongiorno, salve. Giusto, provincia di Latina. Sì, provincia di Latina, okay. Vicina. Allora, perfetto, allora qui ci siamo, dica. Ho chiamato, io mi dichiaro subito, sono juventino. Quindi voglio essere chiaro, sono juventino, però l'ho chiamato perché ho sentito Pardo che si lamentava di questa discussione dei centimetri, della geometria sulla palla, non è entrata, ma lì non c'è nessuna discussione, perché non è che è come un fallo che poi c'è l'interpretazione dell'arbitro. Lì la decisione la dà subito la Sky, dopo un minuto, con l'inquadratura sulla linea. Ho capito, però deve esserci una regola che decide che si fa così, no? Si vede nettamente che la palla non è entrata, tant'è vero che l'arbitro che sta a un metro lì ha detto chiaramente non è entrata. Non c'è. Che poi l'arbitro può sbagliare, sicuramente, allora. Io non è anche sorrentino, sono anche uomo di calcio, quindi non c'è niente di strano. No, guardi, allora, non c'è nessuna discussione. Beh, insomma, discussioni ce ne sono perché ieri sono fiorite, ne parlavamo prima, sono fiorite istantaneamente mille immagini, no? E a seconda della bandiera, a seconda della fede, del colore, eccetera, spuntavano immagini diverse. Ora, io mi fido ciecamente di Pierluigi Pardo, che le ha studiate tutte quante, era in telecronaca ieri, e che ha detto che l'immagine più significativa è comunque quella presa dall'alto, dove si vede che il pallone è entrato, cioè del verde, tra l'ultimo spicchio di pallone e la linea di porta. Però davvero stiamo discutendo del sesso degli angeli, secondo me. Grazie Dante. Claudio, Genova, buongiorno. Buongiorno a lei. Genoano o sandoriano? Allora, io sono juventino filo genoano. Juventino filo genoano. Filo genoano, sì. Sono le squadre di Genova sono in leggera flessione? Ma il Genoa direi di no, ieri ha fatto un bel primo tempo, poi purtroppo hanno preso quei gol come li hanno presi. Il Genoa è sempre stata una squadra un po' matta. La Sampdoria speriamo sia in flessione. Ecco, va bene. Giusto per non fare i tifosi, giusto così per non fare i tifosi. Certo, e vabbè, allora che cosa stiamo a fare, tifosi? Scusi. Ma certo, ma è ovvio. Infatti. Io sono favorevole al gufismo, anche spinto, dica. Infatti. Senta, io sono juventino, sì. Volevo un po' ricollegarmi ai discorsi che sono stati fatti poco fa dai miei predecessori della stessa fede. Io inviterei i juventini a non occuparsi più di queste cose, a non occuparsi dei palloni, se vanno dentro, se vanno fuori. Io invito Allegri a non fare ironia dicendo Garcia ha detto che cioè la Roma è stata da qualche settimana più fortunata, eccetera. Ma guardi che meno di così non si può dire, onestamente. Cioè, mi sembra che la Juventus abbia davvero scelto la linea della non risposta, del basso profilo, del non essere coinvolta nella polemica. Anche i toni di prima di usati da Marotta sono assolutamente al di sopra di ogni o al di sotto, meglio, di ogni tentativo di polemica, no? Sì, benissimo. Quindi allora che continuino così, che pensino però a vincere le partite, non a far succedere come è successo per la prima la Supercoppa, che due volte in vantaggio se la sono fatta soffiare, ieri in vantaggio si sono fatti riprendere dall'Inter, è andata bene così che non hanno preso anche il secondo. Sì, sono d'accordo, è una Juventus in flessione, dicevamo prima, sì. Una vittoria nelle ultime 5 partite considerando anche la Supercoppa. Sì. Infatti, che pensino a giocare e a vincere, non c'è peggior perdente di chi non ha mai vinto. Insomma, mi sembra che la Juventus qualcosina abbia vinto in ultime stagioni. Non mi riferisco alla Juventus in questo caso. Quelli che si lamentano, Allegri si lamentava del gol peraltro validissimo che aveva subito con il Milan contro la Juventus a San Siro. Questa gente è abituata a lamentarsi, che non si lamentino, che lavorino e facciano giocare bene le squadre, sì. E le facciano vincere. Sì. Torno a ripetere però che mi sembra che la Juventus si lamenti abbastanza poco in questo periodo. Anche ieri, insomma, non mi sembra che ci siano state delle roventi polemiche su quell'episodio di Morata che è stato agganciato in area da campagnaro molto difficile. Io a velocità normale ho detto ha fatto bene ad ammonirlo, poi rivedi, è una dinamica molto strana. Altra cosa strana è che Campagnaro si gira e dice no, era fuori dall'area, quindi il tocco l'ha capito e lo ha percepito, però non mi sembra ci siano state violentissime polemiche nemmeno su quel tipo di episodio. Stefano Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, sono un tifoso della Roma, no? Volevo fare un commento in generale sui temi arbitro, tecnologie, eccetera, perché che ancora nel 2015 siamo qui a discutere dell'utilità o meno del supporto tecnologico mi pare un atteggiamento isterico, perché quello che il sistema deve garantire è che il margine di errore venga ridotto sempre di più, quindi l'arbitro di porta ci sta, è sempre un elemento in più. Adesso sento anche qualcuno che dice eleviamo l'arbitro di porta che è inutile. Sì. Allora, questi atteggiamenti isterici, cioè, Stefano, però non ho capito, cioè lei sarebbe per il mantenimento dell'arbitro di porta, che onestamente su quelle situazioni può fare poco, perché l'occhio umano su quelle situazioni limite può fare davvero poco. Lei sarebbe per il mantenimento dell'arbitro di porta e non per la tecnologia sulla linea di porta? No, manterrei l'arbitro di porta, sì, perché ripeto, l'errore ci sta sempre, ma è un elemento quello che diminuisce il margine di errore, senz'altro. Poi ci può essere, sì, la fallacità dell'occhio, sì, umano, ma anche sulla tecnologia sarebbe un elemento ancora in più da inserire. Che nel 2015... Ah, quindi tutte e due le cose? Tutte e due le cose, assolutamente. Il sistema deve garantire che si eliminino al massimo i margini di errore, che ci sarà sempre. Ma quello che io ho sempre detto, il domandone che mi sono sempre fatto, ma è così determinante avere la certezza del diritto in uno sport, in un gioco come il calcio? In America, ma ad esempio, su una partita della NFL di playoff dei giorni scorsi, che era Lions Cowboys, ma sono quattro giorni che si parla di episodi arbitrali, eccetera, eccetera, eppure lì c'è la tecnologia, c'è una cultura diversa. È così determinante avere la certezza del diritto nel calcio e nello sport? Sicuramente sì, perché quello che conta, appunto, il sistema deve quantomeno avvicinarsi alla realtà vera. Il margine di errore ci sarà sempre, ma si eliminano le polemiche. Faccio un esempio sul caso specifico di ieri, no? Le polemiche, se sono intelligenti, non dispiacciono. No, ma va bene tutto, però se ci fosse stato ieri l'Okai lì, la tecnologia, sì, sicuramente si chiudeva l'episodio lì, poi parlavamo solo del rigore, sì, c'è sempre un elemento di fallacità. Ma ieri anche il sistema arbitrale, no? Io mi rendo conto, ma l'arbitro di porta è lì a 2 centimetri, sì, ha detto che il gol non c'era. Sì, più che altro, allora, ha deciso Guida, l'arbitro di porta non ha capito, sì, non ha capito, ma io lo comprendo, perché l'occhio umano quella situazione non è in grado di percepirla con assoluta certezza, quindi si tratta di prendere una decisione in un nanosecondo, ok? Però, lì è stato bravo Guida nell'assumere... Come? Udinese aveva ragione in questo, dice l'arbitro di porta è là a 2 centimetri, sì, l'arbitro sta a 20 metri. Ha chiamato un gol, che onestamente non mi può dire l'arbitro che lo ha visto con certezza, siamo qui ancora a discutere. Appunto, ma è proprio per quello, siamo ancora qui a discutere, e dopo aver visto 1000 cartoni animati siamo qui ancora a discutere se la palla fosse effettivamente totalmente entrata oppure no, e c'è chi dice di sì e c'è chi dice di no. Lei mi dice come può il povero uomo della linea di fondo avere la certezza che quel pallone è entrato? È impossibile, lì si tratta di prendere una decisione e di assumersi una responsabilità. Evidentemente l'uomo della linea di fondo non ha capito, non ha avuto questa certezza, l'arbitro guida ha preso lui di tasca sua questa decisione, probabilmente ci ha visto giusto. Quindi semplicemente questo, cioè il discorso è che su situazioni di questo tipo, se la palla è entrata di un metro, allora siamo d'accordo tutti, no? Però stiamo parlando, e le vediamo su tutti i campi del mondo, situazioni di questo tipo, anche in maniera abbastanza frequente, insomma è impossibile con l'occhio umano avere la certezza a quella velocità che un pallone sia entrato o no. Dunque ben venga la tecnologia che risolve questa questione puramente geometrica e non discrezionale, e a quel punto, se ci saranno di nuovo degli errori, ci metteremo, ripeto, tutti una mano sulla coscienza. Tutti convocati. Sociedad è in vantaggio 1-0 dopo meno di 2 minuti. Anoche les contamos que la relación entre Messi y Luis Enrique se había deteriorado mucho. El argentino considera que el entrenador es el culpable de los problemas del equipo y lamenta básicamente su actitud prepotente a la hora de tomar decisiones, así como el hecho de creerse el amo y señor del vestuario. Hemos sabido más cosas esta misma tarde, según hemos podido conocer. Uno de los más habituales, uno de los que juega más, ha reconocido últimamente, las pasadas semanas, a sus amigos que Luis Enrique es el peor entrenador que le ha dirigido nunca. Toma. Y es uno de los que juegan. Es decir, es uno de los que dices, no me lo esperaría de él. Bueno, pues es futbolero, sabe de fútbol y lo ha comentado a sus amigos, que es el peor entrenador que le ha dirigido nunca. Tengo la misma relación de principio de temporada con todos los jugadores de la plantilla, la misma. No ha cambiado nada. Bueno, quizás ya nos conocemos un poco más todos y mantengo la misma relación del inicio de temporada, creo que mejorada por el hecho de estar más meses y no... En ese sentido no hay variación. Bueno, el lunes faltaron al entrenamiento y Leo Messi por un problema de gastroenteritis, así se ha comunicado, y ese no tengo de nada de lo que arrepentirme a día de hoy en el aspecto personal con todos los jugadores. No voy ni a confirmar ni a desmentir ninguna de esas noticias, supuestas noticias o noticias que empiezan a aparecer por ahí. Son tantas y tan variadas. Sí que mantengo comunicación con el presidente, sí, pero evidentemente no voy a comentar sobre qué cosas. No he recibido ningún ultimátum. Sería la primera vez en mi corta carrera como entrenador. No pasaría nada, tampoco es que sea algo extraño recibir ultimátum, pero en mi caso no, lo siento, no he recibido ninguno. Beh, insomma, molto spagnolo, però il significato mi sembra evidente, e lo conosciamo, è guerra aperta al Barcellona tra Luis Enrique e Messi, e forse non solo Messi. Filippo Maria Ricci, buongiorno. Buongiorno. Partiamo dalla fine, hai scritto tu ora sul sito della Gazzetta che c'è un contatto con Mourinho? È comparso ora. Sì, no, si apre la pista io. Chelsea. No, è già aperta da un po'. Adesso l'ho qua. Il problema vero è che è difficile controllare. In questa ragione Luis Enrique quando dice sono uscite tali e tante cose che non le diciamo non le commento, sì. non confermo né smentisco. E, diciamo qui c'è un lato più puerile. No, per cui questo è un fatto. Lunedì pomeriggio il community manager di Messi decide che dal suo account Instagram il ragazzo comincia a seguire l'account del Chelsea, l'account di Thibaut Courtois e l'account di Felipe Luis. Allora la moglie di Fabregas, divertita, mette un bel me gusta, mi piace, al fatto che Messi cominci a seguire il Chelsea. Sì. E questa è la parte, diciamo, se vogliamo, puerile della faccenda. Dopodiché uno dei tanti media locali, tra radio e giornali, sapete bene che qui non ci mancano, certo. Diciamo, i colleghi, ha detto che il Chelsea ha contattato il padre di Messi, questa sì. Notizia dell'ultimo momento. Che sia vero o no, ancora non, diciamo, io non lo so secondo me non lo sa più o meno nessuno, sì. Perché siamo in un momento di tana libera tutti. Quelli che avete fatto sentire sono due resoconti radiofonici, entrambi della radio Cope, che è quella, diciamo, che più ha sparato forte in questi giorni. Normalmente non sono così informati sul Barcellona, per cui anche lì è da vedere. Quindi, diciamo, detto questo, cosa resta? Una gran confusione. Il carattere di Luis Enrique, che adesso è apparso in conferenza stampa, è stato 25 minuti più o meno, e va avanti. Luis Enrique ha un grande pregio, va dritto. Che non cambia, va dritto. Lui va dritto, e lui non ha detto. Io l'ho visto abbastanza bene. Sì, beh, però è chiaro, Filippo, che se tu hai contro la Leo superstar Messi, della sua squadra, hai contro, esatto. Leo Messi, perdi la panchina. Ti ricordi quella, esatto. Volta quella volta in cui Van Basten andò da Berlusconi, questa è storia, e disse o Sacchi o il sottoscritto. Beh, certo, qua Cruyff lo fece con Weisweiler nel 1976, o io lui, è ovviamente rimasto Cruyff, è ancora a Barcellona, Weisweiler nessuno sa chi è, quindi queste sono, è chiaro che è così. Allora, il problema di Luis Enrique è che ha questo punto, pregio e difetto, è lo stesso, lui va avanti, va dritto, non guarda in faccia nessuno, cosa lodevole per un lato, meno per l'altro, visto che comunque si sa che al Barcellona c'è un dittatore, no? Che il piccolo Leo è così, lo sapeva molto bene Guardiola, che si è scontrato con lui per me tra le due e le tre occasioni in maniera forte, sì. E poi alla fine ha lasciato anche perché si era stancato, non si era stancato si era stancato del Barça, ma si era stancato anche di avere a che fare Messi. Con Messi, che è uno che ha quella faccia da bravo bambino che trae in inganno, però non è esattamente così. No, esatto, e mentre un Cristiano Ronaldo magari si musonisce, però si lamenta, viene fuori, Leo non dice nulla, però poi nell'ombra perché accende il fuoco. La cosa più clamorosa è che Leo Messi lunedì non si è andato ad allenarsi nel giorno in cui il Barcellona aveva stabilito che c'era l'allenamento a porte aperte, ne fanno uno all'anno, con tutto il pubblico. E quella è chiaro che è un capriccio. Perché voglio dire, gastroenteriti, lo sappiamo bene che non esiste. Però perché Messi arriva a fare un atto, appunto, di nuovo uso la parola, tanto puerile, vuol dire che anche lui si deve essere stancato, ci deve essere qualcosa che non funziona. Sì, ma queste voci comunque ci sono da tempo, No, cioè non è così in maniera così grave. Ma sai, se ci sono, se tanto tuono che piove, no? Diceva il vecchio saggio. Sai, a me fa un po' ridere, questi del Barcellona, i giocatori sono anche animali strani, perché voi avete fatto sentire il pezzo radiofonico in cui il giornalista rivela che un giocatore gli avrebbe detto che Luis Enrique è il peggior allenatore che ha mai avuto. È la stessa cosa che hanno detto il povero Tata Martino l'anno scorso. Tata Martino si presenta col suo vestito un po' sformato, comprato alla facile, quell'aria un po' così, e dopo due settimane i grossi, i big dello spogliatoio dicono: questo non capisce niente. E da lì in poi non c'è stato modo di tornare indietro. E poi la cosa che un po' fa ridere è che, tutto considerato, il Barcellona arriva a 90 minuti dallo scudetto, perché si gioca lo scudetto nell'ultima partita in casa con l'Atletico. Con un gol era campione di Spagna, nonostante un'annata che adesso, se uno guarda indietro, la ricorda come disastrosa. Quindi attenzione, no? Adesso le cose non vanno poi così male, hanno sprecato un match point l'altro giorno, però anche lì Messi nei 4 anni con Guardiola non è mai stato titolare nella partita del primo dell'anno, diciamo la prima partita dell'anno nuovo, mai. Con Villanova è stato titolare, con Martino no, con Luis Enrique no, quindi siamo a una volta su 4 su 7. Il problema è che Luis Enrique non lo fa giocare, cioè prima gli fanno fare le vacanze prolungate, poi non lo fa giocare, e poi dopo è chiaro, lo manda in campo per risolvere la frittata. Lì c'è una battuta bellissima ripresa dalla televisione spagnola, e quando segna Jordi Alba l'autogol che avete voi fatto sentire prima, Neymar si gira e gli fa: Leo, scaldati. Grandissimo Neymar. E più o meno mette un po' il dito nella... Però è chiaro che così tu ti danno più vacanze, non lo vogliono rischiare. Adesso rigiocano domani con l'Atletico, teoricamente quella è una partita sulla carta abbordabile, e non lo rischiano. Però Messi poi si inalbera, perché dice, poi gli va a dire quello che gli recrimina a Luis Enrique, che dice: ma tu mi mandi in campo per risolvere la questione. Sai Messi, che devo fare? Farti giocare sul 3-0? Cioè, io mi arrabbio se mi metti sul 3-0, no? Capito? Voglio dire, con quello che guadagna, con quello per quanto è forte, ci sta che l'allenatore pensi così. Certamente, ma è come è normale che sia. Cioè Messi evidentemente si è scocciato di rimanere lì, e a questo punto credo che ogni pretesto sia quello buono. Senti, ma dimmi invece del redivivo Fernando Torres, che stasera gioca in derby con il Real Madrid. Titolare, c'è un turnover alla panchina dell'Atletico Madrid, scrivi tu, Moya, Mario Suarez, Rodriguez, Arda Turan, Jimenez e Mandzukic, cioè praticamente tutti. No, va bene, però è titolare. Guarda, io qui l'ho data un po' la spiegazione nel pezzo di oggi. È una questione, Simeone ha visto il panico causato dalla morte del povero tifoso. Dice: che c'entra questo con Fernando Torres? Adesso proviamo a spiegarlo rapidamente. Muore il tifoso del Deportivo, quindi grande, decidono di cacciare via il Frente Atletico, si ritorna allo stadio, l'Atletico perde, lo stadio è in una condizione surreale a livello ambientale, e Simeone sa bene che veramente il Calderon è il 12° giocatore, ma sul serio, qua non è retorica, insomma è uno stadio che trascina, e i successi dell'Atletico sono stati costruiti sulla chimica con lo stadio. La chimica viene meno. Si presenta questa opportunità di riportare Fernando Torres, e lui la cavalca esattamente per questo, e la cavalca tanto che poi dopo, quando vede che allo stadio vanno in 45.000 per salutare uno che, con il quale l'Atletico non ha mai vinto nulla, tra le altre cose ha segnato solo un gol al Real Madrid, no, quando giocava con l'Atletico, poi ne ha fatto uno con Liverpool, e soprattutto arriva in una squadra che è campione di Spagna e vice campione d'Europa, quando lui in 3 anni e mezzo di Premier League ha fatto 20 gol in tutto, e al Milan ne ha fatto uno, sì, no? Certo. Quindi teoricamente era lui che doveva ringraziare, e invece è tutto il contrario. Si è creata di nuovo questa grande, lo stasera torna il, diciamo, il Trent Atletico ha annunciato che canterà, sì, si ritrova tutta la chimica, e ma è il ragazzo del paese, dai, è il ragazzo del paese, è quello che è nato lì, è quello che lì ha provato a diventare un campione. Poi tu hai provato a spiegarmi perché l'ha ripreso, in effetti questo era il domandone, ma perché l'Atletico Madrid, campione di Spagna e vice campione d'Europa, va a riprendersi Torres? È chiaro che non c'è nessun rimpianto per aver perso Cerci, però questo, quando io ho sentito per la prima volta, ma quasi quasi, Torres Atletico Madrid, mi sono messo a ridere per un quarto d'ora, ti dico la verità. Sì, sì, anch'io inizialmente, però in realtà c'è questa componente umorale, emozionale, importantissima, e per ora funziona. Se stasera poco fa una partita decente e magari segna, cioè veramente è l'apoteosi, è il trionfo della mossa politica, della strategia. Sì, però Simone è un uomo intelligente, questa cosa, è uno che vive molto di pelle, no? E lui effettivamente per ora ha ragione, cioè il ritorno di Torres ha veramente ricreato un clima che qui si era perso. Sì. Poi dopo gli va bene, gli va male, questo si vedrà, insomma. Questo si vedrà, intanto ci abbiamo provato. D'altra parte non ci può essere una spiegazione tecnica per riprendere Fernando Torres, in tutta onestà. Grazie, no, Filippo. A voi, ciao. Prestissimo con Filippo Maria Ricci dalla Spagna, ci fermiamo per il traffico. Ma parlavamo di Luis Enrique in bilico al Barcellona. Oggi ho letto che all'Olympiacos è stato esonerato Mitchell, che peraltro ha fatto delle eccellenti stagioni con l'Olympiacos, perché era in contestazione, in polemica con Affellai, quindi ci sta, no, che Luis Enrique possa rischiare dopo una polemica con Messi. 1, 2, 3 tutti convocati. Riprendiamo a convocare gli ascoltatori, Antonio da Milano e poi Giancarlo da Milano, doppietta milanese. Buongiorno Antonio. Eccola qua, allora io sono Antonio, chiamo da Milano, ho sentito un po' la discussione, è da ieri che sento le discussioni sul fatto del gol della Roma, gol non gol. Sì. Allora, siccome hanno fatto vedere immagini da tutte le parti, no? Da tutti i lati, sì, e non si è riuscito a capire se era gol o poi, non gol. Ma poi ognuno si prende, a seconda della squadra di appartenenza, si prende l'immagine che preferisce. Ecco, io quello che voglio dire è una questione di legalità, cioè nel senso, se nel dubbio, allora c'era lì l'arbitro di linea che non ha preso una decisione, l'arbitro a 20 metri mi deve spiegare come ha fatto a prendere una decisione. Allora io dico che nel dubbio un gol non si dà, nel dubbio non si condanna una persona, nel dubbio non si dà un gol. Io lo penso così. E poi, siccome la Roma ha pianto tanto, sai, allora, nel dubbio non dai rigore, nel dubbio non fischi un fallo, nel dubbio non dai la decisione. Esatto, nel dubbio tu non prendi una decisione, se tu hai un dubbio non la prendi la decisione, lasci correre. Sì, però Antonio, allora possiamo dire che invece Guida, ma perché magari ha avuto una botta di culo clamorosa, ha visto giusto, ha avuto una sensazione. Ma non lo sappiamo, ad oggi non lo sappiamo. Beh, insomma, stiamo qui combattendo ancora tutti quanti. Sappiamo ragionevolmente, sappiamo che insomma le immagini più accreditate, poi adesso ripeto, dipende poi da che immagini si vogliono scegliere, e questo dipende dal tifo. Però le immagini più accreditate, che sono quelle a cui faceva riferimento Pardo con la telecamera sopra la porta, sì, immagine aerea, insomma, sembra. L'arbitro da 20 metri ha visto questo pezzettino di erba verde. Ma può essere bravo, può essere. No, l'arbitro lì ha avuto paura della reazione della Roma e quindi ha deciso di dare gol. Lì è stato semplicemente quello, perché la Roma è da quando ha giocato con la Juve che continua a menarla con gli arbitri. Sì, sono d'accordo. Tutti quanti i media adesso sono pro Roma, nel senso che nessuno adesso qualsiasi cosa succede alla Roma è contro la Roma, qualsiasi cosa succede alla Juve è perché ruba. Non sono d'accordo tutti i media siano con la Roma. Io mi domando invece che cosa sarebbe capitato, domanda che ho fatto in apertura, se a Udine ieri in campo ci fosse stata la Juventus, sarebbe stato un ciclone infernale. Se fosse capitata la Juve una roba del genere oggi sarebbe un ciclone, ma sono d'accordo, sarebbe un ciclone, benissimo, anche, perfetto, anche... sono d'accordo anch'io, è quello che penso anch'io, sarebbe un ciclone infernale. Grazie Giancarlo Milano. Buondì. Vabbè, io sono interista, quindi sono un po' fuori dai giochi. Buona Inter ieri, no? Una buona Inter. Sì, non male. Ci siamo mossicati le mani alla fine, che quei due palloni lì, insomma, uno o l'altro poteva anche andare dentro, no? Ma volevo chiederle, visto che adesso abbiamo appena parlato di Cerci e Torres, no? La disponenza di Menez e Guarin è uguale, quindi potremmo fare uno scambio anche con quei due lì? O una cosa... Mi può ripetere? L'indisponenza? Sì, perché li vedi giocare, sono indisponenti tutti e due, no? E poi una proprio piccola. Ma se facessero i due montanti posteriori, diciamo, trasparenti, che uno vede la linea bianca, in vetro non ci vorrebbe una scienza per uno vedere la linea o no? Ma sì, ma come no? Ma non è così, cioè al di là del palo possiamo anche fare i pali di cristallo adesso. Che almeno uno vede la linea dietro e l'abbiamo finita, che almeno anche il povero arbitro di dietro almeno ci vede qualcosa. Lei dice avremmo finita lì. Io non ne sono mica così convinto. No, perché poi c'è quello che non ha dato una spolverata al cristallo, che non l'ha lavato bene, che ha usato il prodotto sbagliato, magari c'è l'effetto deformante, magari c'è l'alone, oppure poi non lo lavano apposta, perché oppure ancora li mettono le lenti invece del cristallo. Ma non lo so, non ne usiamo. Comunque di Menez come dice allora? E Guarin. Menez e Guarin? Mettendoli sulla bilancia ieri hanno giocato tutte e due alla stessa maniera. Sì, però c'è una certa qual differenza. Mi sembra che Menez fino a questo momento sia stato il miglior giocatore del Milan, quindi sappiamo bene come certe volte abbia quell'atteggiamento un po' così, però cioè, se fosse uno scambio, la possibilità di uno scambio Menez Guarin è furbo interista, lo farebbe subito, cioè Menez per Guarin in questo momento chi non lo fa? Lo scambio Menez Guarin, no? Vabbè. No, credo di no. Credo che non verrà fatto questo scambio. Grazie Giancarlo. Licio, buongiorno. Pistoia. Buonasera, Licio. Innanzitutto complimenti e bravi, siete simpatici, siete grazie. Drammatizzate in maniera molto molto molto molto opportuna tutte queste cose. Ma a me è piaciuta molto quella dei pali di cristallo. Non so se piace anche a lei l'idea dei pali di cristallo, in modo da vedere meglio il pallone. Questa è la prima volta che la sento, in tutta onestà. Ma va tutto bene, però siete anche furbetti, sapete fare bene il vostro lavoro, diciamo così, no? Quindi quando lei si chiede come mai la Juventus tiene basso il profilo, è molto semplice: la Juventus tiene basso il profilo perché comunque qualsiasi cosa direbbe la Juventus, è conveniente per i media trovare sempre il modo di mettere la pulce nell'orecchio che la Juve ha qualche santo in paradiso? Sì, ma è molto semplice, perché così facendo... Sì, dice, però è una questione di strategia mediatica, cioè il discorso è che la Roma ha scelto di operare, di praticare questa strategia mediatica deliberata, che tra l'altro non è neanche inedita, no? L'abbiamo vista molte volte, Mourinho è un professore assoluto in questo tipo di mind games. Dunque, la strategia della Roma è quella di strillare quel tanto che basta per mettere pressione su chi va a dirigere le sue partite e quelle della Juve, no? Scusi signor Genta, posso finire? Io non discuto della strategia della Roma, e fa bene a fare quello che fa, finché gli danno ragione è giusto che faccia quello che fa. Il problema è di come vengano commentate queste cose. Cioè, in altre parole, criticare, trovare il coniglio nel cilindro alla Juventus serve a coinvolgere comunque il 50% dei tifosi italiani della Juventus e il 40% dei tifosi che non sono della Juventus. Sì. E che comunque, se si parla male della Juventus, sono sempre d'accordo. Qualsiasi altra squadra non ha questa capacità di coinvolgere. Quindi voi, mettendo sempre la pulce nelle orecchie alle persone, fate altro che assicurarvi il 90%. Ma siamo... siamo noi, ma no, ma non è questione, siamo, siamo noi a Garcia, cioè non siamo, non ce ne inventiamo noi le parole di Garcia. Che devo fare? Ma poi a me, voglio dire, in mind games, le strategie. Va bene a fare così. Non è, che, non, è, non è questione di fare bene o, di questione di fare bene o fare male, sono, mi sembra che sia l'ambiente della Roma che ha scelto questo tipo di strategia. Noi cosa dobbiamo fare? Stare zitti? Cioè, o non farli sentire o censurarli? Quello sarebbe sbagliato, però se hanno deciso di entrare in aperta polemica e molto spesso a gamba tesa, ripeto, ne prendiamo atto, ne parliamo serenamente e avranno le loro ragioni che sono, ripeto, piuttosto evidenti, cioè non c'è niente di nascosto in questo tipo di strategia. Più che altro possiamo valutare invece una posizione di una Juventus che fino adesso ha scelto, e secondo me ha fatto molto bene, la linea del silenzio e non del duro confronto dialettico. Non sono così convinto che andrà avanti allo stesso modo fino alla fine della stagione, non lo sono, però per il momento è così e anche di questo prendiamo atto e commentiamo, no? Franco Terni, buongiorno. Buongiorno, sono tifoso juventino. Sì. Ascolti, indubbiamente la Juventus in questo momento secondo me attraversa un momento difficile. Vedremo se il signor Allegri riuscirà a ridargli quella cattiveria agonistica degli antichi debbi o no. Se non ci riuscirà vorrà dire che la Juventus. Magari potrà dare alla Juventus qualcosa di diverso. Mi sembra che qualcosa di diverso abbia dato, cioè non si vince di solo furore. Allegri non è Conte, i giocatori probabilmente non sono neanche più disposti, ma intendiamoci bene, disposti nel senso di così desiderosi di quel tipo di spremiagrumi, di atteggiamento. Quindi è una Juventus che sta usando altre armi, che prova ad usare altre armi. In questo momento è una squadra che mi sembra piuttosto appannata dal punto di vista fisico e credo di non sbagliarmi. Abbiamo sbagliato con la Sampdoria, abbiamo sbagliato 4 gol con la Sampdoria, abbiamo sbagliato di stasera, al primo tempo credo che non ci sia stata partita, con tutti i meriti che ha avuto l'Inter nel secondo tempo, soprattutto col gol dopo la reazione, credo che su questo noi dobbiamo migliorare, il campionato è lungo, dispiace non aver vinto, non aver iniziato l'anno con una vittoria. Però direi la prestazione della squadra è stata buona, ottima, direi più che ottima nel primo tempo, direi appena sufficiente nel secondo. Non è d'accordo, Franco? Guardi, io sono solo parzialmente d'accordo perché secondo me i successi che ci sono stati fino ad oggi, non innegabili, dipendono solo in parte da Allegri, ma in gran parte dipendono dalla voglia dei giocatori di dimostrare che erano loro i responsabili, tra virgolette, dei successi degli anni passati e non il signor Conte. Però volevo dire un'altra cosa, volevo dirle se avevate letto l'articolo di fondo del signor De Paola di oggi su Corriere dello Sport. Il signor De Paola rovescia il ragionamento, cioè dice se la prende con chi attacca Garcia e dice che doveva fare il povero Garcia di fronte all'ingiustizia che ha subito contro la Juventus, doveva stare zitto e adesso questi signori lo attaccano per delegittimarlo, cioè rovescia il ragionamento. Io mi ricordo invece il tenore aspetti, chi lo attacca per delegittimarlo? Non la Juve? Beh, ce l'ha con l'ambiente, probabilmente, non so, con Pozzo, con tutti coloro. Ma Pozzo non ha mica torto, quando dice Rudy piange, anche i frutti, ma si figuri se non sono d'accordo con quello che lei ha appena detto, insomma. Il signor De Paola comunque fa tutto un articolo, un'articolessa, su questa, basandosi su questo tipo di concetto. Sì. Io mi ricordo del signor De Paola, tutto un altro tipo di articoli, quando faceva il direttore di Tutto Sport. Certo, qual è il bacino di utenza? Facciamo finta di niente, no? Qual è il bacino di utenza del Corriere dello Sport? Dai, non facciamo Biancaneve e i sette nani. Ci si può fidare di qualche giornalista? Punto interrogativo. Ma più che altro ognuno sceglie le letture che vuole. O ascolti i programmi che preferisce, magari tutti i convocati. Però io ho detto dire, qualche giornalista, non ce l'avevo. No, ma non starei di tanto a fare una discussione. De Paola è un giornalista estremamente credibile e serio, però non possiamo far finta di niente, non possiamo non sapere che il bacino di utenza del Corriere dello Sport è la capitale, grosso modo, e non possiamo far finta di non sapere che il bacino di utenza 30, parte tra poco. Di Tutto Sport è Torino. Ma questa proprio non me la potevate risparmiare, la poesiola non si poteva farne a meno. Vabbè, Allora facciamo così, chiudiamo la puntata, ci sentiamo domani. Franco Piantaneda, autore di questo programma, Fabio Cantadori in regia, Daniele Buonamici in redazione, tutti convocati domani dopo il GR delle 2. Ciao a tutti.